Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, eccoci alle 8:20 minuti. Siamo qui. Una giornata fantastica. È una giornata fantastica. Per me è una giornata fantastica. Ah, sì? Perché? Sì, perché io ci sono dei giorni in cui vedono il baluginio della notte, quando c'è, sono le prime cose dell'alba e uno gira per casa tra bimbi e gatte e vede delle cose che improvvisamente che voi umani gli fanno, sì, che fanno aprire, cioè, il mondo. E cosa hai visto? Ma no, ho visto un allineamento astrale fantastico. Tu pensi, nel giorno mm-hmm. in cui, non a caso, Berlusconi annuncia il suo terzo predellino, torna, è vero. Dice anche: non ho mai sbagliato un colpo. È vero, quello era il giorno in cui Renzi... In che senso non ho mai sbagliato un colpo? In politica estera? No, in tutto, in tutto, perché estera, le donne, no, l'Italia, no, non mondo. L'ha detto le donne, no, in così, politica. L'ha detto perché politica. A chi è chiaro. Dopodiché quel giorno Renzi rilancia il ponte sullo stretto e verrà modificato il progetto. Il progetto, se le due arcate Scilla e Cariddi saranno Matteo e Silvio che si danno la mano e il ponte che passa sopra. E quello stesso giorno ecco l'annuncio che cambia. Perché non è satira politica. Non è un caso, cari ascoltatori, leggete il Corriere della Sera e leggerete che questo è il primo giorno in cui nasce un bambino con il DNA di tre genitori. È vero. E infatti, vedete le grandi frontiere della scienza che anticipano la politica insieme, tre genitori. Ma come, non facciamo l'OGM del mais e poi il DNA invece con tre genitori? Piccolo paradosso all'altro. Un grande giorno, un grande giorno. Tutto tu hai avvenire. Visto questa congiuntura, sì, astrale, l'ho vista nel cielo, il predellino di Berlusconi, finalmente, terzo. A che chi però... critica sbaglia, ragazzi, chi critica sbaglia. E infatti più deficit nel DEF, esattamente come la destra, tale e quale. Ragazzi, no, basta criticare, cambiamo il nostro mestiere e diamo solo queste belle notizie. Tra l'altro, allora, giusto per puntualizzare, Berlusconi ha aggiunto: lo so che la gente ride di questo, ma farò il terzo predellino, il terzo predellino. E Renzi invece era non serissimo. Bisogna ridere. No, sono serissimi tutti e due. No, beh, sai, questa era un'intervista su un giornale, non si sa se Berlusconi fosse ironico, no, ma credo proprio di no, credo proprio di no. Ma Renzi invece era serissimo ieri quando ha rilanciato obiettivamente il ponte. Caro Oscar, io la vivo così, nei decenni è stato evocato un po' per dividere tra ottimisti e pessimisti. Come ce no? La facciamo o non ce la facciamo? Poi è però, l'icona della realtà che, come vedi, sono solo chiacchiere, la realtà italiana, classico italiano. Con molti soldi spesi, un classico, sì, italiano, sì, questo, sì. Ecco, quella forse dovrebbe contare a un certo punto, o no, forse sì. Per i nostri nipoti. E infatti Sergio Rizzo oggi racconta che il ponte, di cui una pietra finora non abbiamo mai vista, però abbiamo visto i soldi spesi e anche il rischio di contenziosi, di salassi che lo Stato dovrà pagare per un'opera che non c'è. Però comunque, Renzi la il ponte, è così, ci sono, no, anche tante canzoni degli alpini sui ponti. Tu vuoi criticare? No, io volevo mandare in onda... Tu sei un nemico dell'Italia? No, volevo mandare in onda banalmente Renzi che dice ieri il ponte, sentite. Che è quella di completare il grande progetto di quella che De Rio chiama la Napoli-Palermo, per non chiamare ponte sullo stretto, ma che è di fatto il collegamento tra Napoli e Palermo in un'operazione che porti non soltanto posti di lavoro, come è sacrosanto, 100.000 posti di lavoro, ma che sia utile. C'è anche 100.000 posti di lavoro, questa è l'altra cosa. Beh, che... questo si è tenuto basso, Berlusconi sparava un po' più grosso, però poi ci si era abbassati a 40.000 e sono tornati 100.000 nel borsino. 100.000 nel borsino, ma erano posti di lavoro o voti? No, erano posti 100.000 lavoro. Posti di lavoro. Comunque, di lavoro. Chiamateci, non ci hai detto i santi, do il numero di telefono e poi i santi. Ma i santi oggi sono questi, è abolito oggi la San Ceslao, no, San Silvio e San Matteo, cioè basta, non è che siamo gli altri santi. Saranno, il calendario liturgico sarà riscritto, un giorno San Matteo e un giorno San Silvio. San Ponte. 800 24 00 24, dai, chiamateci ovviamente su questo, sugli altri temi, su quello che volete, sui temi che affronteremo. Vabbè, questa cosa del ponte ti ha colpito. No, non mi ha colpito, è giusto. Bisogna tutti in ginocchio ad ammettere il nostro errore. Grande fiducia per l'Italia, il ponte ciò di cui abbiamo bisogno, e Silvio il terzo predellino. Predellino, anche lì ci si appoggia sopra, il ponte e il predellino si tengono insieme. Vabbè, ma domani Silvio Berlusconi compie 80 anni, quindi fa questa lunga benissimo, intervista su tutti chi, quanti gli siamo grati, non ha mai sbagliato un colpo, figuriamoci, e quindi... E va bene, e va bene. Sì, che operetta. Si autoincensa un po'. Devo dire, Oscar, a me ha fatto invece arrabbiare, prima in rassegna stampa ho letto questo articolo sul quale ci sono anche scelte diverse dei giornali, per esempio il Secolo XIX lo mette a pagina 3, il giornale lo mette in apertura, e cioè alcuni conti correnti, quindi stiamo parlando di ascoltatori che hanno i conti in banca, per i quali, sì, secondo non prodotti il giornale, sofisticati, esatto, conti, cioè, correnti. Prelievo forzoso sui conti correnti, esatto. Alcune banche che aumentano i costi dei conti per finanziare il salvabanche, le banche Etruria, il fondo di risoluzione, esatto, esattamente. Fondo di risoluzione. Allora, secondo me fa bene chi lo mette nelle pagine prima, perché questa, sì, notizia dovrebbe essere prima spiegata, ma poi anche dovrebbe allarmare molto i correntisti bancari. Lo dico questa volta con un tono molto serio, nel senso che le banche non possono gabellare per aumento dei costi di gestione gli oneri di sistema a cui sono chiamati per finanziare il fondo di risoluzione. Non possono farlo, nel senso che il decreto istitutivo dell'autorità di risoluzione è chiarissimo, nel senso che c'è un unico modo in cui le banche non con mezzi propri possono pagare il fondo di risoluzione, cioè dando botta alla Banca d'Italia, all'autorità di risoluzione, alla Banca d'Italia. Se invece lo fanno, devono dirvelo esplicitamente, dandovi la possibilità esplicita di recedere dal conto bancario senza spese. Invece uno di quei casi citato dai giornali, cioè la delibera assunta dal Banco Popolare, è fatto per inchiappettarvi, perché infatti è 25 euro in più alla chiusura di un conto, quindi voi, quindi non potete neanche essere conto... liberi, dici io me ne vado, vattene, io te li piglio comunque, sì, cioè sei libero di farlo ma devi pagare, bisogna comunque, cari clienti, che li inchiodiate se vi chiedono cose simili, perché avrete ragione, vi dovete naturalmente sobbarcare il contenzioso eccetera eccetera, non diventerete popolari perché le banche tra loro si segnalano i clienti che chiedono loro diritti, ma non dovete accettare una cosa di questo genere. Ed è molto grave che la Banca d'Italia lo accetti, molto grave, mi dispiace che lo so che queste cose non si dicono, questa è Radio 24, è gravissimo che si dica, che si facciano queste cose. Ci scrive un ascoltatore, fate sapere quali banche sono, ma oggi i giornali raccontano, ripeto, il giornale lo mette in prima pagina, la stampa in economia e finanza, il Secolo XIX, che sono giornali collegati, stampa il Secolo mette lo stesso articolo, invece il risalto a pagina 3, si parla di Banco Popolare, di Unicredit e UBI. I tre istituti di cui si parla in questi articoli. Quella comunque più antipatica tecnicamente, è ancora più grave, e in particolare quella del Banco Popolare. Però, caro Oscar, prima Mauro Meazza, rassegna stampa, ci ha detto, ha fatto questo annuncio: attenzione, dipendenti pubblici! Infatti, io mi sono detto, mi sono perso qualcosa sui giornali. Invece, il taglio del 20% dello stipendio dei dipendenti pubblici. In Arabia Saudita, in Arabia Saudita. No, vabbè, però dai, poveri dipendenti pubblici hanno sospirato. Allora, guarda, noi abbiamo un ascoltatore che ci segue sempre, si chiama Francesco da Riad, e ci ha subito scritto, noi l'abbiamo... No, è Francesco, chiama da Riad o si chiama Francesco da Riad? No, Francesco si chiama e ci segue da Riad, pensa, e in Arabia Saudita. No. E allora l'abbiamo chiamato perché ha sentito evidentemente questa notizia, no? Francesco da Riad, giusto? Arabia Saudita. Giustissimo, buongiorno entrambi. Che fai intanto in Arabia Saudita, Francesco? Io gestisco un'azienda di sicurezza, almeno lavoro per una multinazionale della tecnologia per la sicurezza. Sicurezza di frontiere, sicurezza telecamere, radar, droni, roba del genere. Fantastico. Una multinazionale francese. Bene, bene. E ci ha scritto un messaggio perché ha voluto precisare, cioè non ci saranno i tagli, ma che succede? Come funziona in Arabia Saudita, Francesco? No, infatti, seguendovi, soprattutto il tuo refrain costante sulle provvedimenti, vince l'ennesima settimana eccetera, quello che mi colpiva è che, vista la situazione del petrolio, visto una serie di situazioni che effettivamente il governo saudita sta affrontando al di là, senza entrare nel merito, uno degli elementi che stanno facendo è cercare di fare una riduzione dei costi dell'amministrazione pubblica. Quindi l'altro ieri il re ha annunciato che riduce gli stipendi di tutti i dipendenti pubblici, e considerate che stiamo parlando del 65-70% dei dipendenti complessivi del paese, almeno quelli di nazionalità saudita, inclusi a partire dai ministri, del 20%. E questo ha effetto a partire da lunedì. A partire da lunedì. Ieri, beh, c'è tempo per adeguarsi 3-4 giorni a un nuovo... Esatto, il dibattito pubblico, discussioni pubbliche, assolutamente niente. Ora, non voglio entrare nel merito, però immaginate, no, per carità, se paragoniamo a quello che avviene in Italia... Non lo può dire Francesco, lo diciamo noi, non che l'Arabia Saudita sia un esempio di democrazia... diciamo assoluta, ecco, non no, è la Gran Bretagna, no. Non è la patria. Molto assoluta, ma sì, quanto alla democrazia non lo so. Però ecco, no, l'annuncio del re, cioè il re ha annunciato un po' di questo metodo sulla spesa pubblica italiana servirebbe, ma non abbiamo il re. Io voglio gente che mozza le mani, però c'è questa bella cosa. Del resto hai visto che era uscita la notizia che c'erano state delle visite senza preavviso negli uffici pubblici? Adesso capisco perché. Sì, questo è successo a Dubai un paio di settimane fa. Adesso capisco perché. Tra l'altro il signore di Dubai, dopo non aver trovato nessuno negli uffici pubblici, il giorno stesso ha licenziato 9 direttori generali delle sue società. Tra l'altro stiamo parlando sempre di sceicchi, di personaggi di livello. Sì, sì. Quindi, no, esatto. Ma anche lì mi ha colpito perché il provvedimento, giustamente, del principe di Dubai è avvenuto licenziando i direttori generali, cioè i dirigenti. Sì, esatto. Pensa cosa che in Italia invece diciamo sempre che la colpa è di chi sta in basso. Cioè, ci dimentichiamo che se uno è assenteista c'è qualcuno in alto che non vede ed è complice. Però Francesco stava concludendo, cioè, che cosa ha colpito in questa storia? No, che non soltanto, intanto che sono coerenti, al di là, ripeto, sicuramente non è un esempio fulgido di democrazia, però hanno fatto una serie di annunci su un piano strategico al 2030 per cercare in buona sostanza di cambiare la dipendenza del petrolio e dell'economia locale, e stanno eseguendo, ora per motivi vari che magari della politica internazionale voi sapete meglio di me, il petrolio, sono i sauditi stessi che lo stanno mantenendo basso, ma questo ha un impatto nell'economia reale. Sì. Per cui il primo esempio è, noi per primi, o quantomeno i ministri per primi, tagliamo, poi gli ha tolto le macchine, gli ha tolto gli aerei privati, sempre nello stesso giorno, gli ha tolto ogni anno, c'è un adeguamento dello stipendio per tutti i dipendenti pubblici e quest'anno non avviene, e ha tagliato il budget di infrastrutturale per i vari ministeri del 35%. Beh, l'adeguamento in alto dei dipendenti pubblici, questo è bloccato anche in Italia, effettivamente non solo da quest'anno. Ma Francesco, si registrano, a parte il dibattito pubblico, proteste, come si protesta nei confronti del re, di una decisione del re? In Arabia non si protesta, o quantomeno effettivamente, al di là di quelli che sono i mezzi pubblici di comunicazione, i social network su Twitter effettivamente, e soprattutto in lingua araba, sono dei commenti, però devo dire la verità, e questo a dispetto di quello che si sente parlandone in privato anche con amici, io vivo qui da diversi anni e lavoravo anche prima per società saudite. Sono d'accordo, cioè sono disponibile a fare dei sacrifici perché credono che abbia senso il tutto. Mm-hmm. Quindi questo tipo di esempi, diciamo, è gradito. Poi ci sono altre lotte intestine, e qui diciamo, la famiglia saudita sembrano i Borgia, però si adeguano. Però i commenti ci sono. A parte questo, proteste pubbliche non se ne parla proprio. Sono. Francesco, noi ringraziamo, vedi che la radio crea questi straordinari legami. Ma io sono convinto che sia Matteo e Silvio, dai, lo stesso sistema, regime politico, fanno anche loro i tagli. Però in cambio anche loro vogliono un paese in cui nessuno fiata e critica e tutti dicono sì maestà. Io credo che ci starebbero. Comunque Francesco, che è un nostro ascoltatore, ci ha raccontato da Riyadh, Arabia Saudita, come si fa lì. Grazie Francesco. Stefano ci chiama invece da Roma, torniamo in Italia, qua stiamo parlando anche del ponte, sono tantissimi messaggi a dire prima le scuole, però ecco questo atteggiamento sempre di dire facciamo prima una cosa, sempre col principio che non si possano fare due o tre cose contemporaneamente. Beh, la finanza pubblica lo sai, è molto stretta, ma c'è un paese da ricostruire. Abbiamo raccontato dopo il terremoto che c'è una messa in sicurezza sismica di aree in cui abitano un milione di italiani. Sì, però è il principio che, allora, se uno è contro il ponte è giusto e legittimo, ma il principio di dire che vale anche per le Olimpiadi, vale per tutto, facciamo prima le buche, sistemiamo e poi facciamo un'altra cosa. 4 euro. Stefano, comunque, che ci dice? Sì, niente, Io non è che per principio sia contrario al fatto che si facciano due cose insieme, ma in Italia già è difficile farne una da sola fatta bene, per cui se abbiamo delle risorse investiamole. Io sono d'accordo con Renzi che dobbiamo creare posti di lavoro, ma abbiamo un'opera in mano da fare, che è quella di mettere a posto dal punto di vista antisismico tutte le abitazioni che si trovano in zona A e B in Italia. E poi se Renzi vuole veramente interrompere l'isolamento della Calabria e della Sicilia, agisca in modo diverso, cioè cerchi di eliminare il problema della mafia, il problema della mentalità diciamo, e della cultura di quei posti, perché gli investitori non vanno in Sicilia e in Calabria non perché non c'è il ponte sullo stretto, perché comunque lo sappiamo benissimo che ci si muove lo stesso, non è quello il problema. Il problema è che la Calabria e la Sicilia sono due regioni purtroppo infestate da una mafiosità incredibile. Sì, quindi il problema non è tanto l'infrastruttura, ma però anche qui, anche Cantone ha ribadito, dire non è che siccome c'è la mafia questo ci deve bloccare, bisogna sconfiggerla e nel frattempo fare, non sto dicendo fare il ponte, fare. Però questo è il parere di Stefano. C'è invece Piero da Mantova. Buongiorno Piero. Buongiorno. Eccoci. Allora, le volevo dire che le strade hanno sempre portato progresso da 2000 anni. Quindi chi va contro le strade è contro il progresso, è evidente. Non mi interessa niente. È fantastica questa correlazione che lei fa, però mi scusi perché il rapporto di causazione è che non sta né in cielo né in terra. Quindi lei è favorevole al ponte, no? Piero, mi sembra di capire. Non c'è correlazione, c'è correlazione. Non c'è correlazione perché le faccio, le obietto, scusi, e poi sto zitto perché deve completare il suo pensiero. È come se le dicessi, i nazisti facevano autostrade e le autostrade sono naziste. Non c'è rapporto di causazione tra quello che dice lei. Cioè, per esempio, le strade le hanno costruite anche gli antichi imperi per far arrivare prima gli eserciti. Quindi per carità, lei pensa questo, io lo rispetto, mi permetto di obiettare, ogni strada come ogni opera c'è un beneficio e un costo a seconda di come la si fa, quanto costa, chi la paga, eccetera, tutto qua. Guardi, le strade i romani le ha fatte l'esercito, è vero, però hanno rivoluzionato il mondo. Certo, sa com'è. Internet è stato fatto dall'esercito, non è stato fatto dai pacifisti, dagli amanti delle lumache, dei moscerini, è stato fatto dall'esercito. Quindi se lei vuole il progresso è una cosa, se lei dice no, ritorniamo all'Amazzonia, si ritorna all'Amazzonia. L'alternativa al ponte sullo stretto secondo lei è l'Amazzonia? Guardi che la Sicilia è strangolata, è come se lei avesse un capio, lei dice mettiamoci un po' di burro che così. Ma non si figuri, infatti io dico che lo scandalo è che ci si metta da Messina a Palermo in treno 3:40, binario unico a gasolio. Ecco, quello mi pare che per i siciliani che gli infliggiamo da decenni, quella sia un'umiliazione devastante. Ma lei, Piero, ragiona un po' per estremi, appunto, ponte o Amazzonia, però lei è favorevole con questa... Molto. Molto favorevole, sebbene i costi siano lievitati, sebbene ci siano penali da pagare, oggi Sergio Rizzo racconta, comunque lei vede il no come un essere contro il progresso. Vedo cosa hanno fatto in Russia, il comunismo, quante strade hanno fatto? Hanno fatto la ferrovia più stretta, per essere sicuri, di stare a casa loro. Quindi strade, ponti. Le posso dire che lo scartamento ridotto c'era già ai tempi dello zar, quindi anche in questo caso la sua dichiarazione non è molto dei comunisti, c'era già da prima. Oscar Piero è per il progresso, ponti, per carità, aperture, strade, collegamenti, mentre chi invece non li vuole è un una conservazione o un ritorno all'Amazzonia. Rispetto va prima bene. Di tutto. Va bene, ma anche perché dai messaggi almeno sono più quelli contrari. Siamo felici che ci sia anche qualcuno che non è vero. Sono tutti messaggi. Favorevoli al ponte. Adeguiamoci allo standard Arabia Saudita, se vogliamo buona decisione. Dai, un'ottima decisione quella annunciata per il progresso dal Presidente del Consiglio. Va bene, allora, dopo la pubblicità, ma sai che è successo un miracolo? Ce n'è stato un altro a Roma. Ti ricordi che c'era Marco Rettiglieri all'ATAC, noi abbiamo richiamato, perché lui aveva detto voglio controllare quelli che si danno malati e che non possono per questo guidare i mezzi pubblici a Roma. No, ma peggio, non è che stanno guardando, la gente che dichiarava di avere patologie, che erano inabili, ma era permanente, alla guida di vetture e al lavoro in officina dell'ATAC, quindi stavano solo a fare amministrativi in ufficio. È stata fatta un'indagine. Quindi non era una malattia di un giorno, no, era proprio una roba. No, no, sì, non posso guidare, sono in abito. Fischietto per capire. Imboscati come... e vabbè, è stato scoperto qualcosa che ci racconterà. E lui, come il principe del Dubai, ha deciso di fare una cosa: di fare dei controlli. Dopo li scopriremo i risultati. State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. 24 mattino. Attenti a noi due. Sul ponte di Bassano noi ci daremo la mano. Sul ponte di Bassano noi ci daremo la mano. È il ponte, no? C'è ponte e ponte. Ah, c'è ponte e adesso ponte. Non vorrei dire, ma il messaggio è questo. Ah, non è il ponte di Messina questa, no? No, ponte di Bassano è un ponte che da sempre esprime dal basso solidarietà, operosità, bassi costi, efficienza. Ed è una canzone che è cantata da un pezzo d'Italia, che c'è una certa piuma su un cappello che poi ti tira sulle maniche tutte quella le volte. Quella dell'Alpino, Peter Scapè, esatto, che c'ha, anche, la, che c'ha anche, oltre la piuma sul cappello, la penna nera, c'ha anche l'anello al dito, esatto. Visto che si è sposato. Perché ha assunto questo altro impegno fondamentale, che onorerà con lo stesso spirito con cui onora Corpo. No, io sono sicuro che è così, perché è così, chi li conosce sa che sono così. Però invece una storia italiana... Le follie della politica hanno fatto del ponte dello stretto e mi dispiace amaramente perché di motivi per prendere per i fondelli i calabresi siciliani davvero non ce ne dovrebbero essere più da decenni, visto le condizioni in cui la Repubblica e lo Stato li fa vivere. E invece è diventato il simbolo di una presa per i fondelli, di spese buttate a mare per niente, di annunci ritrattati. Se vai a vedere negli anni, penso, Prodi l'ha sempre voluto, la presidente dell'IRI, un pezzo della sinistra maggioritario non lo voleva. Nel 96 Berlusconi era contrario, poi nel 2001 diventa favorevole, sì. Da quel momento fino al 2011 diventa sempre favorevole, lo ricorda ogni elezione, la sinistra lo sfotte a ogni elezione. Beh, tu hai citato Prodi, giustamente anche nel 2006, oggi racconta Sergio Rizzo che quando è andato al governo, poi è durato un paio d'anni, lo voleva, ma era gran parte dell'Ulivo che non lo voleva, esatto. Quindi insomma, diciamo che... storia è controversa, ecco. Rutelli lo voleva, cioè erano più i margheritici e quelli che avevano una certa eredità per sviluppo della DC che continuavano a volerlo, sì. Mentre quelli del PD fino a oggi, insomma, mi sembrava la battuta di D'Alema come sempre molto simpatica nei confronti di Renzi. Cos'è un assist a Berlusconi? No, un regalo a Berlusconi, perché Berlusconi domani, come ricorda il giornale, che farà 10 inserti, lettori del giornale, precipitatevi in edicola, perché ovviamente... Francesco ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Dica. Volevo intervenire appunto su questa questione circa il ponte sullo stretto, un po' anche forse perché appunto di recente, secondo me, vedo un parallelismo con il discorso delle Olimpiadi. Sì. Quindi quello che era il mio intervento era volto a sottolineare come, secondo me, il discorso di mettere i soldi qui piuttosto che mettere i soldi di là, intendo ovviamente nelle opere pubbliche, piuttosto che quello che ha fatto ieri il sindaco di Roma, che chiedeva al governo di investire le stesse risorse sul patto, il famoso patto con Roma, quindi sulla città, è secondo me profondamente disonesto, perché si va a raccontare alle persone quello che non è possibile, ossia per le Olimpiadi c'erano degli investimenti privati che Roma purtroppo ha perso attraverso la rinuncia a organizzare questo evento. E la stessa cosa, almeno è quello che racconta Renzi, io forse ingenuamente ci credo, che ci sarebbe anche un grosso intervento da parte di imprese private e anche da parte di imprese private dall'estero per quanto riguarda l'investimento. Per questo, insomma, bisognerebbe in qualche modo crederci, ecco, questo dice. No, ma sa, adesso io dico questo, il project finance con i privati si può fare a una condizione, con tutte le opere pubbliche mondiali si fa, mica sono solo soldi pubblici, ma si fa a condizione di poter garantire che c'è un calcolo assolutamente affidabile dei flussi di traffico da cui ricavare poi tariffe che vanno ai privati per remunerare l'opera in un certo numero di anni. Noi siamo il paese che hanno sbagliato i flussi bestialmente, persino sulla Brebemi qua in Lombardia, a Milano, nella parte più avanzata dell'Italia, sì. E tenga conto che lì, ripeto, per alimentare quel ponte la ferrovia è medievale che ci arriva, sicuramente quella siciliana, e così via. Quindi ecco, questo per dire, non è che i privati non ci mettono soldi a prescindere, i privati mettono soldi dove c'è certezza di un ritorno e conti ben fatti. Ponte Sicilia non ha offerto né l'una né l'altra cosa fino ad oggi. Però, caro Oscar, a Roma accadono i miracoli, non solo non a Napoli con San Gennaro, anche se tu non ci credi, poi tra l'altro hanno rubato le offerte di San Gennaro e De Magistris ha detto porta male, restituitele che porta male, caro. Bisogna restituire solo se si ruba i santi, se si ruba gente normale no. Perché quello porta male. Ma a Roma accadono i miracoli, come all'Atac, dove... c'era un direttore generale fino a poco tempo fa, lo abbiamo chiamato ancora e lo ringraziamo. Il miracolo è che non è più lì, no? No. Marco Rettighieri, buongiorno dottor Rettighieri, eccoci qua. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, il miracolo è questo, lei quando era all'Atac aveva disposto dei controlli, perché c'erano molte persone che erano ritenute inabili alla guida con tanto di certificato medico. Risultato da questi controlli, l'80% sono guariti. Neanche a Lourdes. Rettighieri, con l'imposizione delle mani. No, Rettighieri, lei deve noi lanciamo un proclama. Rettighieri, no. Lei deve diventare una risorsa del Servizio Sanitario Nazionale, sì. E visitare gli ospedali italiani. Esatto. O andare a Lourdes, manifestarsi, appalesarsi attraverso collegamenti video, guardare negli occhi i malati e dire alzati e cammina. Ecco. Non sono ancora a quel livello, ovviamente. No, però, che è avvenuto, direi sì. No, ci spieghi un po'. Ha fatto fare dei controlli. Su quante persone? Ma erano centinaia di persone. Centinaia. Adesso non mi ricordo esattamente la cifra esatta, ma erano qualche centinaio di persone, ex autisti dichiarati inabili o in altre funzioni della società, che dopo aver subito una visita medica adeguata sono stati dichiarati un'altra volta idonei per l'80%. Ah, quindi vuol dire che c'era un bel certificato medico di un medico evidentemente compiacente, o non lo so, che ha sbagliato, No, interveniva prima del miracolo, quindi sai, anche la scienza rimane muta di fronte al miracolo. Esatto. Quindi questo qui è servito a ridare un po' di fiato alle pinguicasse del mediato, come no, se non altro aumentare anche il numero di persone che possono guidare adesso i mezzi pubblici e lavorare in officina, perché naturalmente le patologie inabilitavano alla vettura. Che tipo di patologie erano? Non so, quelle classiche. Quelle sulla schiena, ovviamente. Le strade di Roma sono notoriamente dissestate, quindi una inabilità, anche se temporanea, ci poteva anche stare, però queste erano ormai anni che si ripetevano questo tipo di inabilità, per cui abbiamo riportato in linea persone che erano anni che non facevano questo tipo di lavoro, ecco, un'altra volta. E quindi queste sono tornate alla guida, però sa, lei Rettighieri dice è una cosa che forse non sa più, non la riguarda più, visto che non è direttore generale dell'ATAC. A me non è che abbia fatto piacere andare via, ovviamente, non c'erano le condizioni e da buon manager quando non ci sono le condizioni non si può rimanere, è ovvio questo. Diciamo che l'ATAC mi è rimasta nel cuore, anche perché c'è la maggior parte dei lavoratori che si dà da fare e che è efficiente, per cui mi dispiace per loro, eccomi, perché io ce l'ho messa tutta. C'è un po' di amarezza, no? Perché poi l'ATAC, che lo sappiamo, è una delle aziende, come ci dice sempre Oscar Giannino, più dissestate, più da risanare. Ha una storia degli ultimi anni che l'ha messa amaramente in testa a quella graduatoria. Io condivido l'amarezza con cui Rettighieri dice, è ovvio che se uno si impegna avendo chiaro l'idea di come si può fare, si può uscire da questa posizione. Esattamente. Io dico che ATAC è possibile risanare un'azienda del genere con 3 anni di duro lavoro, con finanziamenti opportuni, perché senza i finanziamenti non si va da nessuna parte, e con le mani libere. Questo serve per altri. Lo so. Lei non le ha avute? Cioè sta facendo... No, perché ti ricordi che lo avevamo ospite, ci spiegò... È interessante, non le vogliamo far fare una lettura politica su quello che sta succedendo, però... Io sono un tecnico e non un politico, però... queste erano le condizioni per poter, ma per chiunque, adesso a prescindere da Marco Rettighieri, per chiunque questo deve essere il target. 3 anni, finanziamenti opportuni e mani libere. Questo è un problema, secondo me, la politica. Adesso, naturalmente, ovviamente la sua dipartita, ed è quando lei dice, cari ascoltatori, per chiarirlo, no? È mancata la fiducia e rispetto al nuovo sindaco della sua squadra. Però io temo che questo valga per tutti la politica in Italia, cioè la convinzione che un manager, se si trova a dover fare un turnaround, quello che si dice con termine inglese tecnico, cioè un risanamento molto profondo, che turnaround significa cambiare il modello organizzativo e gestionale di una società, la politica crede a quel punto di dire: tu mi devi dire però chi, come, dove, quanto, sposti, eccetera eccetera. Quando è così profondo, il manager gli dà gli obiettivi, gli dà gli strumenti, ma devi metterlo nelle condizioni di poter decidere e fare lui, non di testa sua, perché non è un matto, devi fidare, c'è un rapporto. Però questa roba, secondo me, la politica per definizione non la capisce, Rettighieri, perché è convinto che a quel punto lei non ha il controllo di quello che il manager fa, altrimenti un'azienda non si rimette in piedi, vista la profondità delle decisioni da assumere, sbaglio? Anni fa Londra, il sistema di superficie, lasciamo stare la metropolitana, ma il sistema di superficie londinese era pressoché al collasso. Il sindaco diede carta bianca per 5 anni al manager. Adesso il sistema londinese, esatto, è sotto gli occhi di tutti, è uno dei più efficienti al mondo. Insomma, con questa anche amarezza o constatazione, insomma, però anche Rettighieri, come vedi, con indicazioni concrete, che qualcuno cada, naturalmente cada, ma noi gli auguriamo di fare un altro bel mestiere, ma perché qualcun altro possa avere questa facoltà. Colleghi del Messaggero, fantastico, perché non l'abbiamo detto, ma no, mettono a segno un colpo. Attenzione, Berlusconi presenterà l'emendamento per abbattere l'IRPEF alla finanziaria la settimana prima del voto del referendum. Facciamo una scommessa. Messaggero lo scrive. Berlusconi? Cioè, scusatemi, io oramai. Berlusconi, lo so, è giorno. L'entusiasmo al strato. Sarà Berlusconi, vedi, ma Berlusconi sarà favorevole, vedrete, non vi preoccupate. Renzi farà questa Renzi. Cosa. Messaggero, non sto inventando, guardate, non è una battuta. Dai, intanto ci troviamo domani. Ciao.